Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Non si può certo dire che il 2013 sia nato sotto una buona stella. I nostri politici ci hanno tenuto con il fiato sospeso tra litigi, larghe intese, abbandoni e nuovi amori. Il governo Letta ne ha viste di tutti i colori. Dopo appena 5 mesi Letta è in piedi davanti al Senato a chiedere la fiducia. Dopo pochi giorni, un vero colpo di teatro. Siamo di fronte ad una mutazione genetica senza precedenti. Mario Monti si dimette da se stesso. Nel frattempo il governo evita le provocazioni di Renzi e le tentazioni di Berlusconi e il 5 dicembre una frangia dell'ex PDL rinasce con un nuovo simbolo, il nuovo centrodestra. Abbiamo scelto il blu perché è un colore che dà forza, è la forza del mare, è la bellezza del cielo, è il colore dei sogni di Miró. Forza Italia passa all'opposizione e va all'attacco. Eletta si ritrova ancora sul banco di prova. E l'11 dicembre è ancora vivo. Le larghe intese si restringono, forse si infeltriscono tra IMU, TASI, TARSI e c'era anche lo IUC che però si è perso per strada. Fino alla vigilia di Natale, quando durante la votazione per approvare il decreto Salva Roma, Napolitano dà una tirata d'orecchio al suo pupillo. Dentro il decreto lampadine per i semafori, affitti d'oro e slot machine. Da allora il silenzio di Napolitano pesa su questo governo. Ormai sembra un giovane vecchio, i ministri scricchiolano. E la legge elettorale? Forse sì, si farà, come dice la giovane rassicurante renziana Elena Maria Boschi. Chi ha incontrato Verdini? No, ci sono stati dei contatti anche telefonici. Con poi chi? Chiaramente in con Senato chi? Ci sono molti nostri colleghi senatori che lo hanno incontrato. Credo si siano sentiti anche con Renzi per telefono, credo. Ministro Quagliariello, buongiorno. Buongiorno. Allora, direttore, buon anno. Grazie altrettanto. Senta, risulta anche a lei che si siano parlati? Ma francamente non lo so. Non è in cima alle mie preoccupazioni. No, lo credo, però lei si occupa della legge elettorale. Con voi Renzi ha parlato della riforma elettorale oppure no? Ne avete parlato? Ma mi sembra che Renzi, insomma, questo bisogna dargliene atto, ha parlato pubblicamente. Infatti. Ha presentato tre proposte, sa come si faceva, arrischia tutto, vuole la busta numero 1, la busta numero 2 o la busta numero 3. E lei che busta vuole? E noi abbiamo detto la busta numero 3, non abbiamo detto la busta numero 4, abbiamo detto delle tre proposte, quella che impropriamente viene chiamata del sindaco d'Italia, spieghiamo, al primo turno se una coalizione prende più del 35% ha un premio del 15, quindi un premio consentito dalla Corte Costituzionale. Mi sembra che la Corte Costituzionale abbia lasciato ampio margine ai partiti, no? Per fare piccoli paletti. Sì, ha detto soprattutto una cosa, il premio non può essere irrazionale, esatto, non può essere enorme e quindi non ce ne possono essere due di premi. Ecco, però diciamo che due che si sono parlati di cose concrete per ora, ci sono stati, sono Ardella e Brunetta, come ha raccontato il Corriere della Sera, senta cosa ci hanno detto, poi ritorniamo. Ieri Brunetta ci ha detto questo, senta un po', l'accordo Renzi-Berlusconi, secondo lei è vicino o no? Cioè questa è una settimana buona o no? Da parte vostra ci sono dei paletti oltre i quali sopra o sotto non si passa o no? Election day, un turno maggioritario bipolare. Può essere questa una linea d'accordo? I paletti sono gli stessi, quindi ci siamo, questi sono giorni decisivi, secondo me l'accordo appunto non è lontano. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, va bene anche per voi, ministro Quagliarella? Ma noi veramente avevamo detto che l'unica proposta che può dare la sera delle elezioni un'indicazione di chi vince e chi perde è il doppio turno, ma su questo devo dire avevamo un po' copiato da Renzi, l'avevamo sentito dire da lui a qualche Leopolda e quindi abbiamo detto questo. E quindi restate non su quella tratta, posizione. Non si tratta di un veto, ma soprattutto abbiamo detto un'altra cosa, che sia il sistema spagnolo sia il Mattarella non è bipolare, cioè fotografa una situazione esistente nella quale i poli sarebbero tre. Non è sicuro che chi vince le elezioni possa governare. Assolutamente diciamo. No, né con l'uno né con l'altro. E quindi diciamo che bisogna stringere in questa direzione però lei li vede... Però non è che lo diciamo solo noi. No, no, io appunto. L'ho sentito dire da Franceschini, da Del Rio, che oggi ho letto sul Corriere da Violante. Sì. Mi sembra tre compagni di partito di Renzi che appartengono anche a aree diverse. E quindi diciamo che per noi italiani c'è una buona speranza che si chiuda. Beh, insomma, io dico una cosa. Non la sento ottimista. No, no, no, anzi, io dico che se si vuol chiudere, la chiusura è a portata di mano. Scusi, se uno le dice, certo, certo, scelga tra queste tre cose, e uno dice, io scelgo una, sì, di queste tre, e questa scelta è la stessa che viene fatta in maggioranza, mi permette il gioco di parole, all'interno della maggioranza, beh, se si vuol chiudere, si chiude in una settimana. Certo, conta anche quello che sceglie Berlusconi, Forza Italia, naturalmente. Io penso che immagino. Io penso una cosa, che su questo non deve avere nessuno un potere di veto. Certo, non lo dobbiamo avere noi, non, certo, lo deve avere Berlusconi. Senta, però, forse la cosa più normale in democrazia è che se una maggioranza si ritrova su una proposta, poi va dalle opposizioni e dice: cosa ne pensate? Avete dei correttivi? Avete delle ipotesi per migliorarla? Insomma, bisogna partire dalla maggioranza, questo di sostanza è la sua, mi sembra normale. Ma perché da qualche parte si deve partire. Appunto. Senta, intanto però il governo sembra sempre più fragile. Secondo lei andiamo verso un Letta bis? Ah, guardi, io le dico una cosa, io credo che la cosa fondamentale è che il governo riparta con forza sull'economia, sulle riforme. Sì, ma io per ripartire... questo vogliono gli italiani. Certo, è sicuro. Ecco, ora, il resto, diciamo, viene dopo. Se è una condizione perché riparta, lo si faccia, ma se dobbiamo finire all'interno, cioè l'unica cosa che noi non siamo disponibili a fare è finire nella palude. Vabbè, questo mi pare che tutti dicono la stessa cosa, e come non andarci nella palude è un problema. Se secondo lei, dopo l'incontro con Napolitano, sì, la faccio dire subito, ma le faccio la domanda. Sì. Dopo l'incontro con Napolitano di ieri, Renzi dice: rimpasto per me è una parola che non esiste. Quindi più o meno dice un po' quello che dice lei: contano le cose, bisogna fare le cose. Poi chi è Letta che deve dire con chi le cose che vanno fatte si fanno, mi pare, no? Esattamente, è per questo che il nuovo centrodestra ha presentato 2 giorni fa la sua proposta sul lavoro, che è una proposta di legge, cioè ha messo nero su bianco quello che vuole, ha consegnato questa proposta in Parlamento e l'ha consegnata al presidente Letta, perché io credo che gli italiani hanno una preoccupazione più di ogni altra, e cioè che bisogna invertire il trend della disoccupazione, siamo al 12,7. Non c'è dubbio. Mentre molte cose sono andate meglio in quest'anno, diciamolo, lo spread è passato da 2,77 a sotto. Va bene, lo spread è sceso. La pressione fiscale è aumentata. Si è fermata, però non è aumentata. Non parliamo dei pasticci sulle tasse, perché non ci si capisce niente. Voglio dire, allora, francamente. Sul lavoro abbiamo fatto questo. Ora, sul Senato, che è una riforma fondamentale, certo, io direi una riforma pivot, perché? Perché se noi non diversifichiamo il Senato... Anche voi come Renzi dite la stessa cosa, allora, mi pare, ma più però, o meno... Oh. Però noi oggi presenteremo una proposta e la consegneremo a Letta in Parlamento, nero su bianco, e diremo che il Senato deve essere la Camera dei territori, e chi viene eletto per questo, insieme ai consigli regionali, non può fare 3 o 4 cose, deve fare questo. Quella, perché bene. Si è bloccato il meccanismo italiano con il titolo quinto. E questo è un passo avanti, certamente. Ecco, io le chiedo una cosa, lei passa, non so se ha torto ragione, come uomo di Napolitano, lo sente sempre? No, io sono credo un ministro della Repubblica. Sì, lo so, ma voglio sapere, c'ha un rapporto continuo? Sento ogni volta che è necessario. Ecco, ma lei come lo interpreta il silenzio del Presidente in quest'ultimo periodo? Devo dire la verità, nei comportamenti... non ne vede un segno politico? Non ho notato nessuna differenza. Mm. Quindi, parlava molto, adesso certo meno. Probabilmente... Ci sono meno cose da dire. Questo è un momento nel quale devono parlare i partiti. I partiti e si fare. Deve chiudere questo progovè e bisogna tornare a fare. Senta, ma voi continuate nel governo, non siete sovrarappresentati? Voglio dire, mi sembra che abbiate deciso che il segretario del vostro partito non può essere ministro, è così o no? Ma vede, sì, questo ovviamente, ma vede, questa è veramente è l'ultima preoccupazione. Vabbè. Se qualcuno ce la pone, voi l'affronteremo. Ecco, mi pare che insomma si sono dimessi un po' di viceministri, sottosegretari, sì, eccetera, certo. Ma perché abbiamo chiesto di rimpiazzarli? Insomma, francamente, parlare oggi no, di poltrone... No, è una domanda solo, ecco. Ricordo 800 24 00 24, 34, il numero di telefono, 349... 238-6666 l'SMS. Mario Secchi, Quagliariello, una domanda? Buongiorno. Buongiorno Secchi. Buongiorno Quagliariello. Senta Quagliariello, ma non è che alla fine andate a votare con un bel proporzionale? Beh, io penso francamente che questa sia un'ipotesi da scongiurare. A questo punto è la politica autoreferente, perché se andiamo a votare con un bel proporzionale, cosa, insomma, perché lei sa, ha letto Popper più di me, quindi... No, Popper è tutto suo. Però che cosa succede? Che il giorno dopo ci troviamo a, come posso dire, larghe intese forever. Certo, cioè, certo, è naturale. Ecco, il proporzionale non si blocca, scappa, nulla. Non si scappa. E allora, per quale motivo? No. Va bene, Pietrangelo, buttafuoco. Buongiorno, una domanda stupidina, perché non ho capito bene che cosa succederà nel prossimo appuntamento elettorale. Il nuovo centrodestra si presenterà regolarmente, per esempio all'appuntamento in Sardegna e poi all'Europea, che cosa accadrà? Ci sarà una campagna elettorale? Allora, su questo le posso dare una risposta. Cosa accadrà alle prossime elezioni? No, mi riferisco proprio al nuovo centrodestra. Però, allora, in Sardegna, se non sbaglio, si vota a febbraio. Il nuovo centrodestra nasce ufficialmente come partito l'ultima settimana di marzo. È lì che terremo la nostra assemblea costitutiva, approveremo il nostro statuto, eleggeremo i nostri organi non provvisori. Da allora in poi vale, e quindi da allora in poi ci presenteremo a tutte le elezioni. Per noi le elezioni europee sono la prova del fuoco, buttafuoco. Lei ecco. Capirà che se alle elezioni europee abbiamo un grande risultato, abbiamo superato l'esame di maturità. Quindi questa anche insinuazione che noi non vorremmo in nessun caso le elezioni, noi non vogliamo le elezioni perché le elezioni non servono al Paese. Ma non è che è un problema, diciamo così, di bottega, perché noi comunque l'esame di maturità lo dobbiamo fare. Se si facessero le elezioni nazionali, Dio non voglia, beh, dovremmo portare una materia in più. Ma comunque è quella l'occasione in cui ci giochiamo la partita. Grazie Ministro Quagliariello, ci sentiremo ancora nei prossimi giorni. La ringrazio per il suo tempo. Fiction. Era la sera del 18 aprile del 1974, quando il giudice Mario Sossi, rientrando a casa, fu sequestrato dalle Brigate Rosse. Quel giovedì cambiò la mia vita e quella di molti altri. Ero sostituto procuratore a Genova. Quella sera capimmo cosa significava quella stella a cinque punte e quella sigla, Brigate Rosse. Noi chiediamo che questo tribunale condanni alla pena dell'ergastolo Mario Rossi, Giuseppe Battaglia, Simone Astara, Rinaldo Fiorani e Augusto Viel. Parole precise, nette, taglienti, non vendicative, giuste. A questo pensavo quel giorno, mentre il pubblico ministero del Tribunale di Genova, Mario Sossi, finiva di chiedere per il gruppo della 22 ottobre il massimo della pena. Era la fiction sul sequestro del giudice Mario Sossi, compiuto a Genova dalle Brigate Rosse, ieri il secondo appuntamento della trilogia Anni Spezzati, che con coraggio Rai Fiction ha prodotto per Rai 1, che sta mandando ora in onda. La seconda puntata andrà in onda domani sera. Noi abbiamo ricostruito, con i faccia a faccia dell'epoca, il vero rapporto tra il giudice Sossi e il fondatore delle Brigate Rosse e capo dei sequestratori, Alberto Franceschini. Questa è la storia del sequestro di Mario Sossi come ce la racconta lui nel suo faccia a faccia. Lei nel 74 era il magistrato più odiato dalla sinistra extraparlamentare. Sì. Eppure lei la sera tornava a casa non in scortato, autobus. Sì. Ma è vero che quando l'hanno rapito hanno fatto anche un po' di pasticci col furgone, si sono persi, hanno sbagliato strada. Sì, purtroppo c'è stato un fatto hanno addirittura bucato, che possiamo definire comico-drammatico. Comico nel senso che nessuno è morto in quel frangente, drammatico nel senso che si sono sparati fra loro. Fra loro? Sì, loro avevano varie macchine. In una di queste macchine io ero rinchiuso dentro un sacco incatenato, quindi non avevo possibilità di movimento. Ad un certo momento, diciamo, uno degli occupanti della macchina ha gridato: spacca il cristallo, siamo inseguiti dai carabinieri, spara. E c'è stata una sparatoria, solo che la sparatoria era fra due macchine delle Brigate Rosse. Avevano confuso una macchina dei compagni con... E questo ha provocato un incidente? Un incidente, perché la macchina sulla quale ero imbarcato, poi mi hanno cambiato di macchina, è finita contro il tronco di un albero. In quell'occasione mi sono provocato quella ecchimosi che si vedeva poi nelle fotografie. Cioè, che sembravano delle botte, invece era un incidente. Fin qui l'origine del rapimento di Mario Sossi. Dopo pochi giorni arriva il primo comunicato che rivendica il rapimento del giudice da parte delle Brigate Rosse. Un nucleo armato delle Brigate Rosse ha arrestato e rinchiuso in un carcere del popolo il famigerato Mario Sossi. Sossi è una pedina fondamentale dello scacchiere della controrivoluzione, un persecutore fanatico della classe operaia, del movimento degli studenti, dei commercianti, delle organizzazioni della sinistra in generale. In quel momento, all'interno della prigione del popolo, Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse, è di fatto il capocarceriere e l'interlocutore di Sossi. Sentiamolo. Io ero l'unico che doveva parlare e gli altri dovevano star zitti, e per lui apparivo il più colto, il più buono, il più disponibile. Mi ricordo che la prima cosa che ci chiede, dice: ma cosa volete dei soldi? Cosa volete da me dei soldi? Non è che la mia bambina, mia figlia l'avete lasciata stare, non avete fatto qualcosa a mia figlia. Io mi ricordo che l'unica cosa che gli risponde è: da te non vogliamo soldi, non vogliamo nulla, siamo quelli che ci hai sempre cercato, perché lui ci cercava, era quello che faceva inchieste su di noi, e adesso invece siamo noi che ti siamo venuti a cercare e ti abbiamo trovato. Siamo le Brigate Rosse. Ma nel cosiddetto processo proletario, le Brigate Rosse da lei esattamente volevano qualcosa di preciso oppure secondo no? Secondo me no, secondo me era tutto dall'inizio alla fine un'azione essenzialmente propagandistica. Mediatica. Così continua Alberto Franceschini. Appena che noi chiediamo la liberazione, gli comunichiamo che avevamo chiesto l'abolizione dei prigionieri politici, lui già comincia a preoccuparsi, andare in sbattimento totale, perché si rende conto, lui infatti stesso ripeteva: ma è una follia, non ve la daranno mai, non ve la daranno mai, non ve la daranno mai. Quindi si rende conto che c'è una strada obbligata dove lui rischia veramente la pelle. Ancora Franceschini. E lui diventa in qualche modo il nostro consigliere, cioè noi di diritto non ne capivamo un accidente, è lui che ci consiglia le mosse giuridiche che noi poi facciamo. Franceschini dice che in qualche modo è stato lei a suggerire ai brigatisti come muoversi per chiedere lo scambio dei prigionieri, è vero? Sì, è verissimo, cioè io avevo l'idea di ciò che legalmente si può fare anche un prefetto di una provincia o lo Stato di una parte del territorio italiano, quindi li consigliava. L'applicazione della legge di guerra. Legge di guerra prevede ritorsioni sotto il profilo della prigionia e scambi tra prigionieri. Certo. Ancora Franceschini. Tra me e lui in particolare si costruì comunque un rapporto, diciamo, credo che poi che succeda forse in molti sequestri, in tutti i sequestri, cioè si costruisce un rapporto tra due persone, insomma. Io mi ricordo che lui lo chiamava Marietto, in qualche modo mi ero pure affezionato a lui. Nel rapporto con il suo carnefice, diciamo così, interlocutore, è vero che si crea poi un po' una sorta di sindrome di Stoccolma? No, io direi... Crea un rapporto... La sindrome di Stoccolma la escluderei a priori. Si crea una certa confidenza, per cui uno è portato a dire chiaramente ciò che pensa nei limiti in cui gli può essere utile. Questo dalle due parti? Sì, è una specie di autocontrollo. Però desiderio di accattivarsi l'interlocutore. Più che altro il desiderio di capire la psicologia degli interlocutori. Perché decisi che ero io che avrei dovuto sparare? Proprio perché si era costruito tra me e lui questo rapporto molto particolare. Volevo verificare con me stesso la mia capacità di essere un rivoluzionario fino in fondo. Cioè la mia capacità di saper prendere le distanze da questa dimensione umana che ero andato a costruire con un nemico di classe, con uno, col peggior nemico di classe. E invece il momento in cui ho avuto più paura è quando Franceschini gli ha detto: vabbè, non trattano, ti ammazzo io. Sì, perché avevo l'impressione che i miei messaggi criptici non fossero stati afferrati, e la netta impressione, malgrado il carattere, se vogliamo, migliore, più diplomatico del Franceschini, una intransigenza che, sa di, che sapeva del fanatico, ecco. Sì, sì. Una sera io sono entrato nella cella sua con un risotto e una bottiglia di Barbera Molto Buono, insomma, e brindiamo, e gli dico domani ti liberiamo. E lui dice, non ci crede molto subito, però cavolo, vede sto Barbera, vede sto risotto, se lo mangia, beve. Niente, tant'è che il giorno dopo lo rivestiamo con i suoi vestiti, gli mettiamo dello scotch sugli occhi e poi gli mettiamo un paio d'occhiali da sole bombati, anche questi tutti scocciati, in modo che lui non vedesse la strada. Senta, ma quando le ha offerto quel risotto e quella Barbera, lei davvero non ci ha creduto che era arrivato il momento di... Ero diciamo, sicuro al 50%, quindi... Mm. Per lei, comunque, alla fine, in un modo o in un altro, è stato fatto quello che per Moro non è stato fatto, cioè per lei si è trattato. Ecco, da magistrato e da ostaggio, era giusto o no, secondo lei, nel caso Moro, trattare? Sarebbe stato giusto trattare. Perché? Perché, diciamo, la dignità dello Stato non si perde trattando. Franceschini, il suo carceriere che abbiamo sentito, è libero da tempo. Lei lo ha rivisto mai? No. Perché non lo vorrebbe incontrare? No, in modo assoluto. Che cosa la blocca nell'idea di incontrarlo? Beh, una impossibilità assoluta di comprensione. Nella storia di Mix 24 racconteremo con documenti e testimonianze la storia del rapimento e della liberazione di Mario Sossi. Mix 24. Solo davanti a un fiasco di vino, quel fiol di un campo alle feste, perché il Giuncan di Trieste, perché il Giuncan di Trieste, davanti a un fiasco di vino, quel fiol di un campo alle feste, perché il Giuncan di Trieste è di piace il vino. Pietrangelo, oggi si beve? Oggi si fa festa, perché c'è un clima... Io non lo sapevo che ci siano stati dei compleanni importanti. No, non so, compleanni importanti. Sì, a proposito di Don Matteo, non il sacerdote, ma il Don per eccellenza, ma Matteo, cognome... Renzi, giusto. Io non mi sono accorto, Mario, tu ti sei accorto, tu che sei attento, che nel mondo di Twitter... Ne è venuto fuori uno meraviglioso, no. Perché cosa ci viene detto? Noi veniamo da quella scuola potente, importante di giornalismo che ebbe gli Indro Montanelli, giusto? Beh. Qualcun altro ebbe gli Enzo Biagi, sì, giusto? Sì. E quindi l'indipendenza, la necessità di mostrare la professionalità, insomma un campione del giornalismo indipendente, ovvero sia Gianni Riotta fa un tweet dove dice urca. Tutti in piedi. Urca, non lo sapevo che anche Matteo Renzi è un capricorno, auguri e si affidi alla razionalità del segno. Non oso immaginare se Sallusti avesse fatto... No, ma parlate sempre di voi stessi, no, la gente fuori protesta, arrabbiata, mozione sbagliano. È il classico esempio di altissimo giornalismo zodiacale. Quindi, branco come fra di noi. Ho capito, allora sarà branco il futuro dell'opinione. Branco è il maestro. Il maestro. Allora era in prima pagina sul Messaggero. Sempre. Ce l'ha messo il nostro direttore. E quindi va. Non ma è che cosa bolle in pentola, Mario? Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Allora, Moulin Rouge, è in una versione un po' più elettronica. Beh, perché? Perché dobbiamo essere aggiornati su Normal, sulla trincea di Parigi. Ma Parigi oramai è meraviglioso, sono storie fantastiche. Perché Valérie, intanto pare resti in ospedale, vediamo oggi che cosa succede. Si sono aperti degli interrogativi sulla sicurezza del presidente Hollande. Il fotografo di Closer dice che il presidente è protetto malissimo. A sua volta il presidente dei senatori socialisti dice che è ora di abolire il titolo di Premier Dam. Sono troppe oramai. E voi capite, c'è un po' di... c'è un ingorgo. Non si sa quando è che uno diventa Premier Dam. C'è un ingorgo all'Eliseo e quindi questa è la realtà. Mi serve questa musica, perché oggi, leggendo i giornali, mi sono accorto di un dettaglio che il maligno ha messo nel bel mezzo della vetrina smagliante dei Golden Globe. Cioè, vengo a leggere un fatto che mi ha turbato molto, e cioè che si festeggiano i 50 anni di carriera di Woody Allen e, sempre nel diabolico mondo di Twitter, svetta il tweet che il figlio riserva a lui. Mi sono perso il tributo a Woody Allen. Hanno messo la parte in cui una donna ha pubblicamente confermato che l'ha molestata quando aveva 7 anni, prima o dopo Io e Danny. È una cosa raggelante, anche perché si dice i miti non si toccano, i miti non si avvicinano, ma i miti vengono celebrati, i miti diventano poi parametro e guida spirituale, e quindi a quel punto io torno... Ma com'è che tu hai un'aspirazione a diventare tribuno? Tribuno? No, sì, però no, mi fa impressione. Non lo so, perché un po' di Woody Allen, chi l'avrebbe mai detto? Come chi l'avrebbe mai detto? La storia era non nota. Sua figlia. Ha sposato sua figlia, tutto sommato. Ma è l'Occidente, Woody Allen, in questo caso è Woody Allen. Mi sembra un po' generalizzato, ma è pieno di tanta gente normale. No, lui è, delle lui, famiglie lui sane. Cerca di fare lo spengleriano, no? Quindi il tramonto dell'Occidente. Così. No, che spengleriano? Io c'ho una luce. Non ci siamo. Il carro di Krishna. Io invece mi rendo conto che quello che abbiamo detto prima colpisce, perché la gente è un po' stufa, Alberto dice, non c'è più tempo, qua fuori la gente non riesce ad andare avanti. E ho sprecato l'ennesimo SMS, Alberto, purtroppo con gli SMS non si fanno le leggi, ma si cerca di premere, proviamo. Senti, anche noi. Minoli, 20 anni fa moriva la DC. Ecco, a proposito. In realtà io ti informo, ma tu dovresti saperlo benissimo, che i democristiani sono vivissimi. E allora mi sembra che sono al potere dappertutto. Esatto. Lei ha detto la famosa frase: il potere logora chi non ce l'ha. Adesso comunque un po' meno potere ce l'ha, quindi sta un po' di più dalla nostra parte. Può confermarla questa cosa? Sì, guardi, perché anche qui c'è sempre stato un po' un equivoco. Il potere non è solo di avere una bella poltrona o dare degli ordini. Cos'è il potere? Il potere è avere un contatto con l'opinione pubblica, vero. Insomma, un grande giornalista ha un potere superiore a quello di molti ministri. Chi scrive un libro che riesce bene, secondo me è un potere. Quindi il potere è quello è di... un potere, ma insomma è stato maggiore. Però quello è un tipo di potere, ma non si deve dire che il potere è solo essere ministro. E il denaro cos'è per lei? Beh, il denaro, insomma, come nelle ricette mediche, secondo me bisogna averne quanto basta. Beh, era un politico importante con un giornalista importante. Quel politico importante avrebbe compiuto oggi 95 anni e all'Istituto Luigi Sturzo, per iniziativa del Comitato Archivio di Giulio Andreotti, presentano il libro Giulio Andreotti. Ecco, con 10 discorsi scelti dal suo archivio. Allora, onorevole Nardelli, dal 98 lei è segretario generale dello Sturzo. Quanto è grande l'archivio che vi ha donato il senatore a vita Giulio Andreotti? Lei sa che l'archivio è un archivio incredibile, di 3.500 faldoni che si snoda per 600 metri lineari e che segue tutta l'attività politica, ma anche la vita personale del Presidente. Quindi è un archivio famoso, mitico e anche temuto in qualche modo. È temuto a ragione oppure no, secondo lei? No. Secondo me no. Secondo me invece l'archivio è un archivio straordinario per varie caratteristiche. Intanto perché è stato donato in vita dal Presidente. Certo. Nel 2007 il Presidente mi chiese di raccogliere, di portare in istituto questo archivio che era custodito in uno studio in via Borgognona, e in 2 mesi riuscimmo a portare tutti questi faldoni all'Istituto Sturzo, dove l'archivio è conservato e dove l'archivio è stato visto ormai da moltissimi studiosi. Cioè è consultabile al pubblico? È consultabile con una serie di modalità e per la parte naturalmente che è stata riordinata e che viene via via riordinata. Certo. Noi nell'archivio vediamo il suo modo di lavorare, il suo percorso. E anche la sua vita in qualche modo. Certo, ci sono addirittura i quaderni delle elementari, in cui a un certo punto la maestra di fronte a un Andreotti che in quarta elementare racconta un avvenimento avvenuto a Milano, gli dice, fa un commento sotto e dice: tu non fai commenti, racconti semplicemente i fatti. Ma mi dica una cosa che a lei l'ha colpita particolarmente, che proprio non se l'aspettava. Ma direi questo interesse per il cinema, questa curiosità del presidente. C'è questa attenzione ai media che, anche se forse in modo più garbato e ironico di quanto non si faccia ora, dimostra questa attenzione a aveva capito al mondo, che la comunicazione. Non c'è dubbio. Marce militari, allora, è una giornata importante oggi e domani in Egitto, Buttafuoco, che segue queste cose, lo sa bene, si vota un referendum per la nuova Costituzione voluta dal regime, quello che ha sostituito il presidente Morsi, i seggi sono stati aperti, vediamo che cosa succede, ci sono 53 milioni di aventi diritto al voto. Mi sembra molto importante questo. Beh, sì, anche perché... Anche perché sai, dopodiché bisogna vedere come sbagliano va a votare e si rivota. Rivotano. Va bene, okay. Si rivota. Questa è la democrazia, la bellezza. La bellezza, cioè se vincono gli altri devono perdere. È così, però insomma l'Egitto è un paese chiave, quindi va seguito con grande attenzione. Nei sogni di Clara e di Tino c'era sempre una piccola macchina color latte con la quale partire appena sposati. Un bel viaggio di nozze con poca spesa. Mia moglie diceva: pensa che comunque... Carosello, 500, perché parliamo di Fiat, se ne parla moltissimo ovviamente, la stampa internazionale segue con grande attenzione le operazioni di Marchionne, che è stato confermato per 3 anni, stamattina Maurizio Landini della FIOM dice: ah, il governo deve fare di tutto per tenerla in Italia, se ne vanno, non investono e così via. Mi pare che non ci sia speranza, no? Ma non lo so, cioè, Marchionne ha confermato gli investimenti in Italia. Ha confermato che la casa madre probabilmente va negli Stati Uniti, però insomma io do un paio di numeri, perché secondo me ci si dimentica di una cosa. Che cosa è Fiat Chrysler oggi? Sono 16 marchi, 158 stabilimenti nel mondo, 77 centri di ricerca, 215.000 dipendenti. Ma secondo voi un gruppo così può essere pensato che sta solo a Torino? È un po' difficile. È difficile, anche se sono torinese. Voglio dire, insomma, è la realtà. È il principio di realtà che domina. Non vorrei seminare zizzania, ma avete visto che meraviglia quelle foto arrivate dal salone di Detroit delle nuove Mercedes? Non vorrei dire. Non vorrei dire. No, vi prego, dateci da bere. È tempo di relax. È tempo di Santori. Gatto! Allora era Lost in Translation, Michele Santoro? È Lost in Translation, il grande Bill Murray che faceva uno spot, ricorderete tutti, con un regista Jap, il quale si arrabbiava moltissimo. Perché lo dico? Perché è bella questa storia della giapponese Suntory apposta, che acquista l'americana Jim Beam, perché c'è un problema demografico che abbiamo pure noi italiani, cioè i giapponesi sono i più vecchi del mondo e c'è bisogno di gente che beve. E dopo la viabilità, continuiamo con le bolle, poi parleremo con il professor Daniele Doglio, professore di economia dei media. Mix 24. Sarete voi gli scudi d'argento ai primi. Sì! E poi ogni uomo che ha servito per 7 anni avrà la giusta pensione dal nostro tesoro. Quanto Alexander il Grande. Parlavamo di bibite, sì, alcoliche. Il vino fa male, perché i neozelandesi hanno detto che Alessandro il Grande morì per del vino avvelenato. Solite menzogne sul Sikander. Però il Sikander non beveva. Il Sikander beveva. Beveva o non beveva? E questo è l'interrogativo. Mistificazioni occidentaliste. Naturalmente, professor Doglio, secondo lei beveva o no Alessandro Magno? Ma sicuramente. butta fuoco in minoranza. Minoranza stavolta. Sono professore, minoranza. È quello che la sa più lunga. In naturalmente, in genere sì. Professor Doglio, senta, la RAI manda in onda una pubblicità che dice il canone è in onda. È così secondo lei? Beh, in qualche modo è il solito vecchio vizio, diciamo, si dà per scontato che quello che è stato fino ad oggi è ancora il servizio pubblico, è ciò che il canone va a compensare, cioè una proposta certo. che la televisione commerciale non è in grado di fare. Quello che inquieta un pochino, mi scusi, in questa campagna, è la prevalenza della componente quantitativa, al di là della modestia, diciamo, della proposta creativa che è stata fatta internamente per risparmiare, quindi vabbè, è questo modo, è un è bene del tutto giustificato. Ma se lei ricorderà, questa campagna dice vediamo 14 canali TV, 10 canali radio, punto interrogativo, non so bene come li metto insieme, ma fa niente, 3 portali web, il canone si deve pagare perché ti dà tanta roba. Come se il compito di un servizio pubblico fosse dare tanta roba. Vabbè, nella roba, tanta c'è anche la qualità, naturalmente. Ma le sembra che un popolo già restio di suo a pagare il canone possa essere convinto in una sul fase quanto? come questa, in cui la quantità dell'offerta è assolutamente sovrabbondante certo. sulla domanda, a andare a fare il suo dovere e non invece puntare a una proposta che mette in evidenza gli aspetti qualitativi. Va bene, giriamo l'osservazione a chi di dovere. Però anche in Inghilterra si avvicina alla data cruciale come la nostra del 2016, e cioè quella della conferma appunto del canone. Come si sta muovendo la BBC per arrivare a questo appuntamento preparata? Allora, la cosa interessante è che in Inghilterra la BBC si muove per la sua parte, ma tutti quelli che hanno i portatori di interesse in questa grande vicenda, che è il rinnovo del charter, il rinnovo della concessione reale al 2015, fanno ognuno la loro parte, cioè per intendersi BBC elabora un suo rapporto con le proposte di revisione della missione, delle strutture, dell'organizzazione, dei servizi, tutto calibrato sul raggiungimento del cosiddetto public value, cioè il valore aggiunto per l'interesse generale. Parlamento e governo studiano le eventuali modifiche in relazione a eventuali nuove priorità nazionali. L'autorità garante, che lì si chiama Ofcom, e quindi ognuno fa la sua parte, valuta l'impatto della nuova convenzione sui nuovi scenari di mercato e sull'innovazione certo. tecnologica, e poi le associazioni di categoria, le associazioni dei produttori, i sindacati, le associazioni dei giornalisti, l'associazione degli autori e, come abbiamo già detto una volta, gli spettatori, gli ascoltatori. Certo. E quindi dovremmo fare così anche noi, cioè è un buon metodo, insomma. Direi che è un metodo che potrebbe essere replicato, ovviamente fatte le opportune differenze tra i due sistemi istituzionali, in maniera simile. La chiave lì è la costruzione di quello che si chiama un green book, un libro verde a cui presiede il Ministero della Cultura e dei Media, il Dipartimento lo chiamano lì, non il Ministero della Cultura e dei Media, con lo scopo di raccogliere tutte queste opinioni, filtrarle, affidarle a una commissione indipendente che poi costruirà la linea sulla base della quale la regina, perché il charter è reale, assegnerà rinnoverà a BBC. Vabbè, è un bel processo di decisione molto complesso. Intanto ci torneremo sopra. La ringrazio, professor Doglio. Alla prossima volta. Intanto noi torniamo ancora sul giudice Sossi. Oggi abbiamo pensato che fosse una cosa importante ricordare quel periodo nella fiction che è andata in onda sul giudice Sossi. Interpreta il ruolo del giudice Nigro, un ragazzo nato nell'83. Ecco, che cosa vuol dire, Alessio Vassallo, prendere contatto con un pezzo di storia che non si studia neanche a scuola? Quando ho avuto la bella notizia di poter interpretare questo ruolo, mi sono avvicinato a questo pezzo di storia così importante con molto rispetto. Il fatto che sono nato nell'83, ho detto, è uno svantaggio o un vantaggio? Per me alla fine è stato un vantaggio, anche perché sono riuscito, penso, mi auguro, a dare al personaggio quel colore di spaesamento, di non consapevolezza di quello che stava succedendo, certo. perché loro si sono trovati in una situazione più grande di loro, certo. e piano piano scoprivano che cos'erano queste Brigate Rosse. Oggi sono passati molti anni, quindi abbiamo il quadro più chiaro, anche se non del tutto completo, perché come i grandi misteri della nostra Italia, poi ancora ci sono tanti segreti che rimarranno forse tanti. Senti Alessio, tu sei un attore giovane, possiamo dirlo, figlio dell'Accademia Silvio D'Amico, hai lavorato in molte serie televisive di successo come Agrodolce, come Il Giovane Montalbano, eccetera. Che cosa c'è nel tuo orizzonte prossimo? Io mi auguro veramente di continuare così e di poter partecipare a far parte di altri progetti come questi. Io adoro molto le fiction, o comunque anche delle storie dove realmente mi posso preparare prima, studiare dei personaggi e magari toccare anche dei momenti storici che non ho vissuto. Quindi... Ecco, tu hai recitato anche in inglese nei Borgia, è stato difficile, stimolante? È stato intanto entrambi, stimolante e difficile, perché ti trovi in un set, c'è molta differenza da recitare in delle produzioni italiane che ti fanno recitare in inglese, in una produzione realmente straniera dove tutti parlano inglese, dal catering al regista, quindi ti trovi in un mondo diverso, però una necessario cosa, però... pensarmi di prima, io di girare un film che si chiama Fino a qui tutto bene, e penso che la frase che porto per adesso con me, che la faccio come un po' sponsor, Fino a qui tutto bene, che è una battuta tratta da un film, Dall'odio, però il titolo del nostro film è una commedia di giovani trentenni che arrivano, fanno il primo giro di boa, arrivano a 30 anni e dicono Fino a qui tutto bene. Ecco. E allora Fino a qui, per un attore di televisione, di cinema, produttore o comunque ideatore di web series, ecco, tutte queste cose fanno parte della formazione indispensabile oramai per chi recita? Ma io penso che sì, adesso oggi per fortuna il linguaggio si è mischiato, cioè non c'è più un grande differenza tra cinema e televisione, e mi auguro anche le web. Certo. Se ancora con le web in Italia siamo in una fase molto embrionale. Si comincia. Si comincia, spero di poterci essere anch'io in quella che sarà. Sarà il tuo mondo di sicuro, e intanto una prospettiva di una serie da protagonista c'è? Speriamo. No, me l'auguro, faremo il Giovane Montalbano 2 e speriamo, insomma, incrociamo le dita per nuove cose. Ecco, tanto... un'ultimissima cosa, sei un siciliano che da solo ce l'ha fatto a Roma, è stata dura però un gran successo. Sì, è stata dura, però anche sono fondamentali anche gli incontri che fai, le persone che conosci, perché... Ma nella vita sempre quello. Nella vita sempre, ci vuole tenacia, studio... tanto, e anche fortuna, anche un bel bagno d'umiltà alcune volte, comunque ripartire sempre da zero, quello è fondamentale, anche se uno riesce a raggiungere un primo successo. Bravo. Ripartire da zero. Bravo, auguri per il lavoro. Grazie, arrivederci. Dopo il giornale radio, come sempre nella nostra storia, Marina Milone racconterà il sequestro del magistrato Mario Sossi con documenti e testimonianze. La notizia in 3D, come sempre, è stata curata da Sara Tardelli.